1, 2, 1, 2, 3, 4. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Ancora a Reggio Emilia, ancora giù in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Ancora come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia, la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Aldo Farioli è morto per riparare il torto di chi c'era scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. Amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che avevamo su in montagna, ed il nemico attuale è sempre quello uguale che abbiamo combattuto sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dobbiamo andare in avanti, avervi tutti quanti vicini al vostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi, bandiera rossa. Fuori a cantar con noi, bandiera rossa.